in cembio, si fanno il turnover, se no ti ammazzano. Oggi è mercoledì, c'è martedì, per giocare sabato di nuovo, c'è a Milan che è libero. Sì, claro, adesso paga il vivo, ma laggiù. Sì, non mi direi niente. Sì, non è bugiano di noi, c'è niente. Arturo, Arturo Vidale. Arturo, apprendi duro. Arturo, ho avuto conto. Ho giocato un sacco di anni con la Juve, quando c'era contro il Napoli. Allora, siamo andare a Cagliari. Uia. Sarà che andare a Cagliari? Siamo è un nuovo centrocampista. Bravissimo, ho giocato con la Juve, con l'Inter. Allora, forza. Come vai col Cagliari? Per fare dei rivaggi a San Camillo, l'Uguaglia, per l'ultima. Un'altra partita persa ed è l'ultima. A me c'è il B. Allora bisogna attaccare uno qui, dopo ti andà. Rinforzi. Stanno facendo rinforzi. Poi c'è il cambio, Favoretti, Zaza, Zaza è molto bravo. Gioca con Torino. Fanno un cambio, Favoretti va a Torino, Zaza va al Cagliari. Centravanti. Vabbè. Vediamo, vediamo, ci si gioca la Sardegna. Zanza! Zanza è forte, con i voci. Eh sì, è molto bravo. È che gioca poco col Torino. E ci sembra col Cagliari a titolare sicuramente. Sì, sì. Rubonini. Rubone di titolare Giba cosa? Eppure io lo guardavo molto il Cagliari prima, adesso un po' le partite sono troppo tempo, un pochettino mi sono perso, però lo guardavo molto prima. Segna passaggio, finchia, e lì c'è pulizia. E ci fa un... Io sono bagno, ci sentiamo dopo. E io sono qua a quel fatto, c'è anche quando finisce la partita. Sì, fai un attimo noioso. Buonasera, mi. Ciao, Antoni, la partita mi sto guardando. Sì, mi sto guardando la TV. Ciao, no, Pantoni, ritorno subito, vado un attimino a fare la cutia capiccolo. Attenzione, si farà. Devo fare una cosa e poi vengo. Non ci interessa, non vogliamo sapere, devi fare, non basta. Una guga, non vedi tu, allora collega dei bigoni che ha fatto. Qualcuno se non è che ci vede. Bravo, è buono, no, l'hanno fatto di là tu. Venga, un attimino mi allontani, eh. Toni, ci sei ancora? Tonino? Sono qua. E capa, no? Ehi, cla, facciamo che c'era ancora a Tonino. Tonino pensavo che c'era ancora. Lucato e Bremo che ci sono tutti, eh? Cos'hanno Gignato? No, no, no, si stanno attaccando e se si attaccano si fanno male. Perché Bremo che ci chiede a voti, eh? E lo so, Guglia. Che chiede a voce. Stava più freddo, grazie, sono andato. Ha detto che sono la ciuffa. Io penso proprio che Luca lo chiede a voce, ma beh, questi colori sono forti, clammi. Sono forti questi colori, hanno una forza allucinante. Sono sicuro che li fa, li lascia segno cattivo. Bravo Luca, bravo Ibrahimo che ci è nominato, grazie a Paul Bernardo. Luca poi infuriato, a parte il fatto che è 2 metri, a parte il fatto che è un bastione anche Ibrahimo che ci lascia a te. Vieni, adesso vieni, vieni, ci vediamo sotto il passaggio, se non è cattivo mi... qui c'è già la vita, vieni, ci vediamo sotto il passaggio. È cattivo Ibrahimo, ci ha fatto il lì. Sto dicendo che questi colori sono forti, che lascia perdere tu, fidati. Sono forti, sono ben forti, tra. Lascia perdere tu veramente. E già ne avanza. Se vuoi dire che è nato Ibrahimo, che poi un c'è un vecchione, Ibrahimo c'è altro quanto lui, e ti vuoi dire che è male. all'inizio questo si avrà la tua carriera. Allora si può giocare, devi giocare a certe condizioni, se no non gioca. Cosa giocherà? È giocando uno Brescia, ma cosa giocherà? In panchina giocherà. Appunto, deve fare da bravo, deve fare. Purtroppo quello lì si è sporcato la carriera. Più comodo, mi chiedo che sta pulsando, mamma mia. magari un giorno ce l'avrò pure io una sala a radio. Ma l'unica la soddisfazione più grande che ho avuto è di avere un'antenna sopra il tetto, come almeno decente, per poter parlare con tutti. Prima ero sempre limitato, non la potevo avere, è logico che va bene, fuori senza ombra di dubbio. Quando era la pianoce ero sempre un punto di domanda. Adesso, meno male che un'antenna come c'è, almeno decente. Cioè, che posso parlare, prima la latte dolce era un casino, era. Oh, se era a Dubai meglio la via buccia sopra. Oh, vanno ombriachi, de che dato, burubum, buruma. Vabbè, capà, adesso è più facile metterla perché se ne è andata quella che rompeva le scatole. Perché non l'hai mai lasciata sul tetto, non voleva? Epa, cosa vera chita, la buon'anima chissà che mostra, che si punì a porte, eccetera eccetera, casino contro casino, lo sai com'è intera, si pudiava niente, chi dice se la piani in bocca non ne ha fottia niente, e quelli che ce l'avevano lì, anni fa, ma papà non ha voluto mai punì. Vabbè, poi qui è un vivere anche un casino, se no. Lo so, ma io l'avrei fatto. Vabbè, tranquillo. Ma di niente. Io, infatti, se dovessi ritornare lì, che ci sono solo io la metto. Quando non ci sarà più tuo padre, penso che te ne vai lì a abitare, no? Penso proprio di sì, però come ti entro? Se faccio salire qualcuno, se non riesco a salire io me la faccio installare, non me ne frega niente. Con l'autoscala la installi da fuori, cosa ti affitti? Non ho bisogno, non disturbare nessuno, prendi l'autoscala a noleggio, un paio d'ore, io mi sento io, cosa ti affitti? Perché con l'operatore costa così, dalle 80 alle 100, alle 100 euro, 2 ore. Se trovi un amico che ti fa la cortesia, un'oretta, e fai il dutto, ti prepari il dutto, e ti arrabbiati. Già lo credo, via. Tanto lo trabaglio lo dovia fare, quindi, alla fine, se c'è un tecnico con la cucina, alla fine piglio l'autoscala, sta sopra, fatto di buche, il cuduro coso da reddito, un capo, e via, è fatto il gioco. Salire molto, metto un paio di tubi da 2 metri, 4 metri, 4 duranti e si appoggia. Sì, si è accurata bene, sono andata una leggera, non manco bisogno. Io l'avrei messa, prima di quel tetto lì c'è la mantova turbo. E lì metti, puoi mettere un'antenna leggera, puoi mettere una Game Master, puoi mettere quella che hai, capito? Un'antenna così, se la curi sopra e si apporta. Scappa. Va, sono troppo contento che sono giunti in occhi e sono... Cioè, almeno cavolo, ci sono riuscito. Era un desiderio che avevo da più di 20 anni. Meno male, dai. Hai visto? Tutti i desideri si avverano, basta avere un po' di pazienza. Adesso sia conto tuo e fai i seguiti viaggi, senza che nessuno ti comandi. Prima ci avevo roccio di coburu. Quando sei in tanti a comandare è un casino, io sono andato via da casa, stavo bene a casa di mia madre, però ho deciso di fare da solo. Io ho 23 anni e sono andato via da casa di mamma, sono andato a vivere con i miei suoceri, via Montegrappa, per 2 anni perché lavoravo a Sassari, con loro, e poi a 25 anni mi sono sposato, ma quando mi sono sposato la casa era già pronta, ma sono visto di chi va a girarmi le balle. Non ti la vi prima? Cosa? Non ti la vi capi? Sempre qua, sempre dove sono, io qua ci sono dalla parte. adesso c'erano ancora vivi, non abitavano più qua, ora erano vivi, allora aspettato che morissero praticamente, che non c'erano più, e poi me l'ho ristrutturato e sono andato qua a abitare. Perché un po' di tempo ero in via Pascoli, mi ricordo. Sì, 2 anni e mezzo sono stato in via Pascoli, era una cosa provvisoria, capito? Io dico una cosa, ecco, l'indipendenza è tutta un'altra cosa, non ti rompere le scatole di nessuno, sei più bene e fai quello che tu vuoi. Quando vivi misciano i troppi i bastoni, mi succede sempre un aburotto. Non abitavo al nono piano, non sono sempre qua, capito? Non sono morti nessuno, ci sono sceso al secondo piano, però sempre qua ero io. Quello nono piano, io quando mi sono sposato era anche arrivato, sono voluto abitare direttamente qua. E appena sono arrivato, ancora da cantiere, quando sono arrivato io l'87, era ancora cantiere, aveva luce il cantiere, c'erano ancora lavori che stavano tirando, l'ascensore non funzionava, mi detto Dio saranno appeli, però insomma, avevo 25 anni, quindi capito. Perciò non è che potevo fare le scale. E poi piano piano, insomma, siamo usciti al secondo, va. Sei più in basso. Io te ne sono sempre lì. Sono sempre lì. Ma come mai l'è venuta quella? Non ti andava, non ti piaceva? Aspetta, che ho passato la TV, cosa hai detto? Ma mai, ma non ti piaceva quella là, quella del nonno piano? No, sì, mi piaceva, era più piccola di questa, ma tanto a me non aveva. Questa è più grande, questa è 100 metri quadri. Era più piccola, avevo una stanza in meno, infatti la radio ne avevo, già ne avevo, però avevo un mobile fatto particolare, capito? Qua c'è tutta la mia stanza, non sono morti i miei soci, invece di venderla, invece di venderla ho preso la metà di quello che spettava praticamente a mia moglie, capito? Perché l'eredi era mio cognato e mia moglie. E quindi ho comprato la metà della quota, la quota di mia moglie ho comprato, ho saldato a mio cognato e sono venuto qua. Hai fatto bene. È già bella il secondo piano, cavolo. Sì, per me non è cambiato niente, ho solo allungato i capi e basta, no? Ho fatto un bellissimo lavoro, ho chiamato l'autoscala, ho fatto il lavoro che dovevo fare. Nessuno, c'ho metà della mansarda, non tutta, perché ho 2 quote della mansarda io, tutti hanno un 18esimo, io invece c'ho c'ho 3 sedicesimi, c'ho praticamente la metà c'ho della mansarda io, capito? Mentre gli altri c'hanno 1 metro per 1 metro. Io ne ho metà è tutta la mia, infatti praticamente c'ho rubato, salgo, scendo, faccio, no? C'ho mobili su, c'ho un divano nuovo, c'ho tutte le attrezzature, i tubi di antenne, c'ho tutto sui mansarda io. Bello comunque, lì. Una piccola, ma te l'hai chiusa o è tutto aperto? C'è una chiave anche quelli lì? Quelli proprietari sì, quelli che sono in affitto no. Beh certo, se c'hanno la quota loro, beh, normale. C'hanno 1/18, mentre io ho 3/16, più di loro, capito? Perché ho la quota mia e la quota dei miei soci, capito? Infatti c'ho la chiave io, che sono anche responsabile di caposcala, e poi gli altri 2 o 3 ce l'hanno, ma non c'hanno niente su, tutta roba mia. Tu. Quando vogliono salire a volte mi chiedono permesso, non c'è niente da rubare, però altri non può salire nessuno. Adesso per esempio abbiamo fatto una riparazione. Pascelli, col vento scorso stava, faceva un po' di casino col vento. Allora l'ho messo sotto con un'altra volta, deve venire l'operaio per fare quel lavoro. Guarda, non ho il telefono tuo, vai tu, controlla tu, apri tu, vedi tu. Quindi vabbè, infatti mi ha chiamato. L'altra volta ci risale. E guarda, devo fare un po' di buchi, ho anche il silicone, ma dimmi che altro di te, perché io mangio il muro al freddo. Un'oretta, beh, ok, me. Quando hai finito, chiudo la porta, ti salgo io a chiudere, invece che andare. Ma tu beh, il cavolo. Per roba suia in Chivino, roba. Se vi vai sul travaglio e ne farà la grondaglia e sono dei copri praticamente muretto di grondaia in alluminio, capito? E sono tascellati, sono usciti i tascelli l'altro giorno, quando col vento stava a ballare faceva un sacco di casino e quindi l'ha messo a posto. No, mi ha telefonato, ma guarda che ho finito, ok, vai, sto salendo io a chiudere la porta. Sono salito, controllato, c'era tutto in ordine, a disarrabbi me ne sono andato. Anche quando sono venuto a piazzare le antenne TV nuove, parlotto, perché non c'è il piatto centralizzato, l'ho accompagnato io lo stesso. Tu sei a casa mia, voglio là. Non è un problema. E noi invece abbiamo fatto il gioco. Vabbè. Adesso c'è un po' di roba. Tutto in ordine, tranquillo, non è che è un montinaggio, però c'è un po' di roba, quindi c'è meno posto, capito? Prima che c'era tutto libero. Sono 70 metri quadri di mansarda, abitabile al 100%, sono le finestre alluminio, le finestre che danno al mare, tutto porto torre, c'è tutto, ci vede, molto bella. Solo che c'è solo la luce, non c'è acqua, non c'è bagno, capito? Sopra, che roba d'ora. Conosco uno, cavolo, che quella roba lì fa, in rame li fa. Quelle grondaie lì, cavolo, un appento, però li fabbrica proprio lui, Sì, ne conosco anche uno di Santa Maria Covina, che fa questi lavori. Fa grondaie in rame, tubi in rame, per l'acqua. No, queste sono fatte in alluminio zingato e verniciate in bianco, insomma, capito? Ma piace loro dalla strada che ci sono. Si è spostata e quindi hanno messo a posto l'altro giorno. E vabbè, comunque così. E così. Ma quella è bella, si chiama Massimiliano, che bella bella è. È alta mia tu. È alta al centro, perché è fatta a Mantovana, no? È alta al centro, è alta 4 metri quasi, 3 metri 50, 3 metri 30. E la parte più bassa è 2 metri, 1,75, 1,80, 1,70, 1,80. Non è che tocchi, esce molto bella quella. Perché fa tutto il giorno, poi fa il sottalco con la camera da letto sopra, con la scala a giorno a salire, è favolosa. C'è un progetto io favoloso, lui non è andato in porto perché le quote, la mia quota è troppo bassa. Se avessi avuto almeno il 50% l'avrei fatto. Ma al condominio mi aveva chiesto una barca di sulli, capito? Cioè il loro 1/18 di 36 sono belli di Nato, che ci vanno a passamento, e allora ho lasciato quello, se no se c'era poco da dare me l'avrei comprata tutta, avrei fatto un appartamento di lusso per me e mia moglie su alla grande, proprio da favola, e mia figlia qua giù, capito? Vivone di là, un bel vivone. Se vi accontentavate già è stato bello. Si può fare il bagno, si fa tutte le cose che devi mettere anche in conto quello. A voglia e va bene. No, fare il bagno e quel lavoro non era un problema. Era comprare tutte le quote condominiali che saliva molto il prezzo, capito? Perché poi c'è, una volta che compri, fai l'atto, c'è la, perché interessa la vostra metà, capito? E non è andato in porto, insomma c'è un bellissimo appartamento, molto molto bello, c'è una vista fenomenale, e poi c'è l'ultimo piano, non ti rompere le scatole nessuno, non è neanche molto calda l'estate, certo ci vuole il condizionatore, e d'inverno non è molto fredda perché è fatta in una maniera molto particolare, qui c'è il tetto molto, come si dice, è fatto, impermeabilizzato molto bene, capito? È fatto molto bene, non ci sono tegole ma c'è l'alluminio sopra il cartone che è travato, ecco perché c'è un piano di massa allucinante io. Già lo so, ma ti pare davvero, no? Con capo e tanta resa. Ma io ho già vissuto al nono piano, io da dove avevo le antenne per tanti anni, quindi nel nono piano io ho abitato dall'87 al, qui ci sono 10 anni al secondo piano, poi 2 anni, fra i 2 anni e mezzo, in via Pasqui, e caspita, ho abitato un po' di anni io al nono piano. C'avevo, da dove c'erano le antenne c'avevo 10-12 metri di capo. Capo, non era lontano, era, di già, magari qualche dB l'ho perso, non lo so, sembra così, ma sicuramente ci avrà 50 metri di capo lì, o anche qualcosina in più forse. No, ho 40 metri neanche, ne ho 40 metri però capo buono, stiamo parlando di una Camille che è favoloso, unica discesa. Sulla Camille, unica discesa per il dipolo che è rimasto, la Camille per il due carate ciò, la Camille per la mantova, capito? Basta, le antenne ho tutte tolte, non c'è più niente, ci sono ma capi non ce ne attaccati, devo prendere anzi a tornare, va tempo bello bello, diciamo, verso marzo, così primavera, trovo tutto. Piccoline sono là, non c'è più quella grande. Sì, vabbè, minore di già non disturba la piccolina. Io sto per ascoltare. Sì, per ascoltare già ascolti anche con la mantova. No, non c'ho più radio, anche voi già vedete a fare, che le cantenne, le gambe del ballo. Lascio la mantova blu, basta. Tolto quelle più importanti, che erano più pericolose, ma poi anche quelle, no? Se non va giù il radio, non va giù nulla, non va giù radio, va giù l'antenne, va giù l'antenne, va l'antenne, no, non va a baciare meglio l'altro, anche perché tutto va la mia parte, capito, proprio dove c'ho il mio petto, perché prima era dall'altra parte, dall'altra mansarda, me l'hanno fatto togliere, capito, quando sono andato via io dall'altra parte, perché è scala G e scala F, prima era la scala G e adesso sono la scala F. Hanno fatto il tuglio, ma con le antenne cosa fai? Le sposti, le togli? No, no, non ti preoccupare, le sposto, ma la mia parte, e così ho fatto. Ho capito. Ma come, prima abitavi nell'altro portone, o no? Come scala F? Non ho capito. Ah, forse ho capito cosa vuol dire. Quando tu entri nel cancelletto, Antonio, no, le due torri, la torre, ha due portoni, due scale, scala G e scala F, a destra e a sinistra, capite? Adesso entrando dal cancelletto piccolino, già lo conosci, io sono a sinistra, cioè sono a destra, prima ero a sinistra, capite? Capo, perché c'è un'altra scala lì, cioè, però cambia di numero, cambia. L'altro portone cambia di numero. Esatto, lì c'era il 34. Prima ero al 34, adesso sono al 36. Tanto vero non ho fatto nessun cambio nella patente, niente, perché è sempre lo stesso condominio. Rosso. Rosso e Boimovic, così a finisci di fare qui. Espulso e Boimovic. Ahì, la giudito io. Fuori, adesso il Milan in 10. Ma Giubbale dove fa 0-0? Lasciamo vedere. Oh, un parpaio stazionario. quando va dieva si stanno un po' carini. Quando non fa dieva sono perfette. Ho capito stamattina in quella scala lì. Al 34 o al 35? Non nella scala tua, all'altra scala. Mi pare che sia il 36. No, io sono al 36. Tu a chi è che servi nella mia scala? Come si chiama? Al 34 sono andato, al primo piano. Al 34 al primo piano. C'è Solini, Carpa e l'altro chi è, non mi ricordo. Sini, sì, con la ragazza. Ah, la commercialista. Ehi, ehi. Quella commercialista. Quella dottoressa. Il marito, Giuseppe, è medico. Ma si chiama Chiara, una ragazza giovane. Sì, sì, Chiara Cini, sì. Commercialista lei. Lui è commercialista. E lui è medico. Capito? È dottore lui. Che cosa c'ha però la mia età, forse è più piccola di me. Chiara? Beh, se tu quanti ne hai? 6 anni. No, Chiara forse è più piccola, forse ne ha 32, 34. E quanta è l'aria? 33 ne ha. Oh, tu ti riconosci di condominio? Beh, anche io sono caposcala. Io praticamente siccome l'economia è troppo grande, siamo in 101, l'amministratore ogni scala ha deciso di scala, praticamente siamo referenti dell'amministratore, capite? Qualsiasi lavoro c'è, qualsiasi cosa succeda, io se si brucia la lampadina la cambio io, perché c'è la scatola delle lampadine, c'è tutta la cosa del condominiale, c'è massato, capito? Mi interesso io. Se ci sono lavori da fare l'amministratore viene, se è nella mia scala, perché ogni scala c'è il caposcala, se è nella mia scala lo seguo io, l'amministratore se ne va. Qualsiasi cosa serve io chiamo l'amministratore e lui mi dà l'ordine di comprarlo, capito? Se abbiamo un fondo cassa. Quindi fa tutto in chive. Ah, pensavo che... cioè... E quindi lì comunque era meglio o peggio di dove sei adesso, con le antenne. Tu qua le antenne non le ho toccate, qui da una scala all'altra, capito? Era tutto pieno prima di antenne, quindi io usavo sia la mia mansarda che l'altra mansarda, come muro. Ma invece da quando sono andato via me le ho spostate tutte dalla mia parte, no? Non le ho viste, che ti è fatto la foto, no? Sì che le ho viste, ma ho detto dove di me, dove erano prima, cioè, volevo capire se era meglio o peggio. No, non è cambiato niente, Antonio, vedi. Quando tu usi i carri buoni, la perdita è sempre minima, ma manco te ne accorgi, no? Non noto nessuna differenza, capito? No, assolutamente. Mi è costato un po' di più scendere al secondo piano, perché ripeto, ho speso 250 euro di cavoli, non è che ho speso 30 euro da Fusaro. Ho preso una matassa da 100 di H1000, Antonio. Perché poi mi serviva anche per fare l'altra calata, soprattutto che ho due calate da 40 metri, mi ha avanzato ben poco di H1000. Sì, guarda, anche se prendi 213, dopo un certo coso, c'è un certo costo, ma non per, cioè, qualche ora in meno costa, ma bisogna pindire un matesse. E anche il carribone è corto, ma 213 non mi parlava bene alla Camilla. Stai scherzando. Quello 213 ce l'ho qualche spezzone di 7-8 metri, 10 metri, 12 metri, che li usavo per collegare al commutatore elettronico, ma quando inizi a fare 10 metri di 213 va anche bene, ma lo metto poi nei 40 metri, non è come questo. Questo costa 3,50 euro a metro, a me mi hanno lasciato 2,50 euro. Cosa ha di differenza? Non è che abbiamo capito un granché. Antonio, la Camilla c'ha un centrale micidiale molto grosso, rigido, c'ha la calza, la doppia calza, c'ha una schermatura micidiale, c'ha l'alluminio TV, una cosa di doppia schermatura del genere. Esatto, tipo quello, però è come 213, non cambia niente, è così, la dimensione è quella, non è che ci sia molto, io lo vedo molto, molto morbido, tranquillo, non è, però è un buon cavolo, ce n'è migliori, non è che sia il migliore, ce ne sono migliori di quello, però rispetto a 213 ho preferito quello per avere una schermatura più buona, una, insomma, un cavo buono, dai. Lo sai chi odiamo io? L'ho provato uno spettro una volta, ma carità, l'RG8, te lo ricordi? Lo odiamo. Mamma mia, gli si vuole sentire grosso il petto. Beh, ma anche quello inizialmente risultava un cavo, sempre meglio del... Il cavo peggiore che noi CB abbiamo usato negli anni è sempre il 58. E ti dico che prima lo facevano molto molto meglio, adesso fa schifo il 58 veramente. Un cavo proprio che è andato a perdersi. Capito? Poi, però ti ripeto, io di fretta non ne ho notato. Non ne ho notato, faccio vedere, sono passato dal 213 che avevo allora quando era nono piano alla Camille, che me l'aveva consigliato Giulio, e quindi il risultato è un ottimo cavo, ottimo lavoro, e non mi sono accorto di niente, di perdita, di niente. Beh, ti dirò che comunque questo che sto utilizzando io non è male, ti dirò. Vabbè, ho 5 metri in capo, niente di eccezionale, però a confronto all'altro che avevo prima, questo che mi ha dato una persona è migliore, molto migliore. Non è male, dico, non è male, non mi posso lamentare. E io ho detto quanti metri ne hai? 6 metri, 7 metri, cosa vuoi? Un 58 perché va bene. Va bene quando è così, ma quando iniziamo a tenere tanti metri siamo un mese che stiamo parlando della stessa cosa. Hai molta perdita, non hai nessun guadagno, tu in più tu usi anche lineare, quindi ci vuole un cavi buono, per avere risultati ci vuole un cavi buono, però a noi in 27 io usato una fucca, va bene così. Se io fossi stato più in alto avrei usato un 213 normale. Ma così sono stato costretto a usare cavi del genere, capito? Anche perché avevo altri tipi di antenne, altri tipi di radio, e se non è cavo buono non fai nulla. Adesso ce l'ho e lo lascio, cosa devo mettere? A cambiare cavo. Vai, si legge. Oh, che fa bene così, va bene. Ah, almeno, guarda, c'ho la portata di mano, c'è come mettere in gambo, guarda, cioè, è onde vuoi andare. Certo che però mi sono accorto che è migliore di quello che avevo prima, perché non mi piaceva tanto. Perché prima ne avevo uno che non era che cosa che non andava. Questo è molto più soddisfacente. Sono una persona. Dico che è buono. Posso dirgli altro. Io grosso e potente non ne uso, quindi va bene così. Però se vuoi guadagnare qualche cosettina in più anche nei 10-15 metri, anche come schermatura, come tutto, ricezione, trasmissione eccetera, ti prendi un HC100, capito? È un cavo leggermente, ma appena appena più fino dell'RGC, più grosso dell'RG58, però è un cavo molto meglio, hai più risultati, capito? Lavora meglio tutto, non ha niente di RF, lavora bene, capito? Però se hai così pochi metri, ma tratta ghiscio, ma cosa ti ne ha fatto? Ma infatti è così come sto facendo, non mi accappo ghiscio, è così come sto facendo, infatti non ci salgo più, se abbiglia e luce, se funziona, va bene questo, faccio questo, non mi frega niente. Cercando, è un casino, devo ordinarlo là fuori, magari deve fino a una mattassa, ma che ce l'ha biglietto loro, se va bene questo. Aspetta, le cose barocca, lui stai guardando, queste le cose ci barella io. Yeah. chiamato una persona, che mi ha pigliato. Mi ha detto, ah, come ti dà capi tu, alimentatore switching? Ha detto, bene, mi lo sto utilizzando adesso, la verità. Dito mio, dice che fate il rientro nell'apparecchio. Ha detto, ma cosa l'avete fatto adesso? Dice che l'hanno acciambato dal vento, ha fatto il casino. Ma non l'ha fatto lui, no? Deve venire bugata e poi lui le ha messo un'altra. Cioè, quando la roba si compra, non bisogna toccarla. Cioè, poi potrebbe tirare dei problemi. La maniera di fare modifiche e contromodifiche, cazzo, non la scorgi il microfono, no? Veramente. Io ne ho due nuovi e escono meglio di quelli modificati. Non capisco perché debbano modificare i microfoni. Ognuno fa quello che vuole, purtroppo è così. Vabbè, se quelli alimentatori sono usciti con quella ventola, deve lasciare quella ventola. Cosa ne metti, una più grande, una più piccola? Appunto. Cavolo, allora da uno all'altro, siccome sono della una marca un po' diversa, ne ho due io di questi qua. Cavolo, lo sai che l'altro deve essere, o c'è qualche termostato, qualche maledizione c'ha. L'altro parte piano piano, parte. Poi deve essere, quando si scalda il circuito, allora fa più forte. Una figata, eh. Sì, c'è la doppia tensione. Gira piano piano quando è in stand-by praticamente. Quando tu puoi schiacciare la portante ed arriva la pressione più alta, gira più veloce. No, non fa così. Praticamente fa, allora all'inizio, quando tu l'accendi, la pressione è sempre la stessa, anche se io schiaccio la portante è sempre la stessa. Dopo di un po' che si riscalda, parte, allora parte più forte la ventola, dove c'è quest'altro che ho, parte e basta. Io ne ho uno che quando schiacci la portante va in trasmissione e aumenta la velocità della ventola, la grande rottura di balle. Poi c'è l'altro che c'ho, quello della Raymond, quello lì c'ha l'interruttore che può far girare la ventola più veloce e più lenta, capito? E quindi automaticamente fa meno casino. Ma questo la box è silenziosissimo. Vabbè, io ci vado lontano dalle alimentatori, non ce li ho attaccati alle radio, a vedere luci, lucette, la macchina di tutti i divisori. No, non mi piace, ne manca a me. Mi sono tutti da Giubbucci io. Le radio su e loro sotto. E che non ho spazio, sennò se la via Bucci pura dai nonchi puro, aveva fatto il cavi più lunghi, con la 12 volt se gli avrei messi fuori da qua. Ma a me l'alimentatore non mi piace di mezzo ricatto, soprattutto se quando è switching. A me non piace. Si conferma, è così. Tanto io ti abbandono, mi sciogguro, Biocandy, ti stai gabbiando, ho riposato un po' pranzo, perché sto già qua in stanza, facendo il tuo lavoro della scrivania, quindi me ne vado al salone, ma perché ho dubbio, ho visione qua, me ne vado al salone e me la guardo là, dai. Ci aggiorniamo ancora domani, ok? Saluto tutti quelli che sono in ascolto qua su 10. Buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte qua. Buonanotte. Ma che mi dia più fatto questa radio? È andata attaccata su 30 ampere. Ok, buonanotte, ciao. Un cavoletto, ma 747 stai usando? Che non ne posso attaccare qua, no, che non va bene. Sto arrivando bene con questo. Questa cavoletta è la migliore che c'è. Va benissimo, alla grande. Va bene, Antonio, ci aggiorniamo domani. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte, ciao.